Guardi, di la verità. Non ti viene in mente questa immagine mistica di Pizzi che bestemmia contro il monolito? Il monolito stesso è Pizzi, secondo me, è proprio Sì, è un po' decoccio, però questo, dai, o così, capito? un monolito. Che le misure sono praticamente identiche, quello di lato per altezza, Diviso un 2. porco per un mannaggia. Giusto, sì. Capito? Che è la cosa perfetta diciamo, della blasfemia ideale, le dimensioni perfette della blasfemia ideale, quindi un porco per un mannaggia. E approfittiamo di questo porco per un mannaggia per salutare proprio Simone Pizzi, che questa sera è in trasferta per Lodimogno. Infatti, si trova Esatto. nella città dell'Odimogno. Esatto, è andato a cercare l'infezione, è La andato a troverà? prenderla di petto perché ha detto: io coronavirus non te temo. E quindi è andato in Cina. È andato in Cina, no? No. Quasi, è andato Quasi. via Palo Sarpi, che è praticamente. No, è Provincia un. di Cina. Quasi, tanto ormai è Provincia tutto di Cina. cinese, facciamo finta di non saperlo, ma insomma è così. È tutto cinese. Oh! Compra italiano, no? Adesso fa Certo. tanto il fatto di comprare italiano. Compra Compra bene, italiano. compra sano, compra solo. Marijuana, no, è italiano, italiano, bisogna andare, cioè, andate nei negozi italiani a comprare le cose italiane, che sono Quali? Cioè, il il parmigiano? parmigiano, quindi Il prosciutto crudo? prosciutto, tutti gli affettati italiani, Ok, però allora facciamo una cosa assolutamente scientifica. poi Cominciamo ad escludere. Aspetta, la bieta, facciamo una cosa, no, solo italiano. solo italiano, ok, perfetto. Ok, cominciamo ad escludere le cose che non sono italiane, che quindi non avendole non potremmo fare questo programma. Allora, no, beh, l'hai messa complicata. Ho dei problemi con le doppie negazioni. Allora, Ok, cioè. abbiamo i Allora, ho il microfoni. Dove cellulare. Cioè. sono? Aspetta, Cellulare. andiamo proprio sul tecnico. Ok. Noi abbiamo un mixer. Mixer, già c'è la parola stessa, è straniera, quindi Allora, il secondo me non si mixer, può aspetta, comprare. proviamo. Il mixer è Behringer, probabilmente è fatto in Europa, forse, non lo so. Però non è italiano, Però quindi. vabbè, però no, comunità europea. I microfoni, Forse abbiamo. Il Beringeri. tuo microfono è palesemente cinese perché è un Neuer, non toccare l'XLR che stai Perché? facendo danno. Perché è cinese, non è colpa E mia. quindi, Fosse allora, italiano, prima cosa, non togliamo la darebbe. voce a Gualdi, perché è il primo che non può parlare, perché Ma. sta. Appunto. Il mio microfono, boh, forse è tedesco, però abbiamo un problema perché tutto il resto, volente o nolente, di quello che usiamo, computer compreso, monitor, bene o male è fatto in Cina. Se Posso tornare a parlare? proprio Mi hai devi. attaccato. Ok. Però c'è. Ah, ecco, possiamo prenderci la birra. Oggi La è un po' birra. tedesca la puntata, mi sa che ci ha sponsorizzato la Però Merkel. possiamo prendere la Peroni. La Peloni? Brutta la Peloni. Non è italiana. Eh no, in realtà è di proprietà della SAI, che quindi è giapponese. La Ichnusa. Prendiamo la Ichnusa. La Cnusa credo sia del gruppo Heineken. No, Ma allora tutti a fanculo, non cioè. c'è più niente di italiano. Tra le birre, credo che se andiamo a cercare, se le sono spartite il gruppo. Vaporetti, dai, che tu vai a comprare Vaporetti, tu che sei cinese Carlsberg. già. Perché c'è niente. Però c'è da dire che sono preparato. No, allora fammi Perché tu sei salutare un gli amici. alcolista, Esatto. Però un alcolista consapevole. Fammi salutare gli amici in chat perché oggi ci hanno raggiunto Leo Arjon, che era da tanto che non ci Ah, ascoltava in io diretta e devo ci diceva insomma mettere che il per lui link, metto forse il link. il lunedì è un po' problematico per la diretta. C'è Peppe Rizzard che ci dice: bestemmio io il monolito, ho appena intruppato il mignolino del piede e quindi io gli dedicherei un. Allora, io posso dire che non ho mai intruppato il mignolino del piede. Adesso so che stasera me lo fratturerò in 5 punti, ma non mi è mai successo. Perché? A me è capitato ed è brutto. Com'è possibile che succeda questo? Io me lo sono sempre domandato, perché c'è questo luogo comune del mignolino che pende gli spigoli. Ma io, a me non mi è mai successo il mignolino. Perché? Come andate in giro per casa? A piedi scalzi? In realtà, aspetta un attimo, dipende, nel senso che alle volte, poi, per esempio, da bambino non hai mai provato. No, forse tu no, non ti ci faccio, però da bambino chi non ha provato a imitare Ollie e Benji nel No, soggiorno di casa, mi dava sbattendo contro il fastidio. pensile, quello di legno massello che mamma aveva piantato lì, tipo monolito, no? No, io non mi ricordo. Ma se fosse successo, pensi che me lo ricorderei oggi? Sì, perché è un trauma che non puoi allora dimenticare. Non mi è mai successo. Non è mai successo. Io sto cercando il nostro link, però non riesco a trovare. Quale link? Quello della trasmissione. Quello che c'è. L'ho trovata apposta. Comunque, voglio dire una cosa. Per la restituiamo dignità e identità al mignolo del piede. Che si chiama mignolo. Mellino il si mellino. Chiama. Perché ricordiamocelo: alluce, illice, trillice, pondolo e mellino. E c'è bombolo anche. Bombolo c'era poi. È andato purtroppo. Vabbè. Oh, è tornato anche Davide Guatti che dice: io ci sono, né? Eppure Lobby Frontali che dice: più che monolito, sempre meglio un mojito. E guarda, poi ci arriviamo a c'è gente che ci ha perso. Ci ha perso il posto per il mojito. Insomma. Intanto salutiamo anche Stefano. Credo di aver fatto più o meno il quadro generale. Tra l'altro, oggi sul gruppo Telegram che noi abusivamente occupiamo, che è quello di Morti di Bestemmie, abbiamo lanciato un sondaggio, il cui esito vi darò durante la puntata. Però, se volete, voi che ci state ascoltando in diretta in questo momento, vorrei vedere pure io perché non l'ho visto, dare la vostra scelta a questo sondaggio, la vostra preferenza a questo sondaggio qui sulla chat di Spreaker. Ma noi possiamo votare? Sì, possiamo votare. Abbiamo proposto noi e possiamo, vabbè, possiamo votiamo, votare. Vediamo. Qual è la cosa? Allora, noi siamo per l'umanizzazione delle cose, no? A noi non faceva tanto piacere, per esempio, che il COVID-19, che è coronavirus disease, che è il nome ufficiale, 19, il nome ufficiale della malattia di che ci sta uccidendo tutti, no? Sì, in realtà è un altro ancora il nome, perché SARS, Antani, come se fosse, però... ci sembra veramente impersonale, ci si confonde con quelle degli anni scorsi. Allora ci diamo un attimo. Ciao John, come stai, Brighton? Bene, sai, ho preso il COVID-19. Cioè, se suona male, no, regalo, allora, cioè... cerchiamo di essere anche un pochino più creiamo personalità, creiamo come dire, diamo una dignità a questo simpatico virus. E allora abbiamo pensato un elenco di nomi. Quello più votato verrà attribuito ufficiosamente da noi di Runtime Radio al virus corona di quest'anno. Quali sono i nomi in ballottaggio, allora, Marco? Vado in ordine da come sono scritti. Baby Baby. No, non lo ridire, che sennò Davide, okay, si arrabbia, che l'anno scorso, puntata scorsa, abbiamo strabordato di corona. Forse è vero. C'è Fabrizietto. Sempre perché abbiamo il nostro corona nazionale. Io però l'ho cucciato in Brizzi. Brizzi? E poi sembra... Bri. Brizier. Lizzie the Queen, appunto, la nostra, la regina della corona, le seppellisce tutto. Esatto. E Chu, perché? Però in realtà è più Koff, perché Koff è il colpo di tosse, sì, ma non, senti, è questo, c'è, cioè, il colpo di tosse, non è lo starnutire, è proprio il tossire, quindi, secondo me. E poi c'è altro suggerire, che insomma è bello, sta e vincendo, lì, cioè, no? E lì dobbiamo sta citare, giustamente ce lo sta dicendo Davide Gatti, ce lo ricorda, che già tre persone hanno votato Barkham. Il Barkham virus. Però mi piace anche quello che ha sentito Lobby Frontali, che è Winnie the Flu, sì, beh, ci sta. Possiamo anche aggiungiamo Winnie the Flu, tu che sei l'amministratore di questo sondaggio, farlo, ma non credo che puoi modificarlo. No, credo che dopo che è iniziato a raccogliere i voti non si può. Vabbè, però tanto alla fine la cosa bella, abbiamo una settimana di tempo, oppure... che noi siamo democratici quasi quanto gli egiziani, e quindi alla fine decideremo noi. Esatto, perché c'è la libertà dell'egiziano. Ma allora, lasciamo a fine serata, oppure no, a fine serata decreteremo il vincitore. Tutta quanta la settimana per dare la vediamo come ci va. Okay. No, però volevo dire proprio questa cosa, no? Stamattina, a fronte di una serie di pressioni dell'Unione Europea verso l'Egitto a causa dell'arresto, per non dire chiamarlo sequestro, del povero studente egiziano che peraltro studiava a Bologna, che è stato arrestato col pretesto di essere una sorta di spia, sì. E sostanzialmente l'Egitto, incalzato dall'Europa, è riuscito a dire questa frase in merito appunto al caso Zaki: l'Egitto ha più libertà di qualsiasi altro paese sviluppato. Si è sentito minacciato da questa frase l'Egitto? cioè il sentirsi libero. Esatto. Ma è vero, cioè quando io stavo dicendo prima, quando tu non hai fare come cazzo gli pare, tu, quando tu non te ne frega un cazzo dei diritti umani, delle leggi internazionali, sei libero, cioè la tua libertà è assoluta. Hai meno, cioè, problemi, ce lo dimostra Salvini, no? Sì, che sì, fondamentalmente se ne sbatte, e dopo parleremo anche di questo, perché noi vorremmo non parlare, come lo vorremmo non parlare di Trump, però è impossibile. Lo fanno apposta. Cioè, sì, proprio, cioè, se c'è una volta che tu provi a non parlarne, ti arriva il video su, in questo caso per esempio su Twitter, in cui si vede questa scena, questo tweet di questa persona che dice: cosa può battere un muro di cinta? Perché non ci piacciono i meme per radio, esatto. Costato $1 miliardo, è facile. Una scala di 51 piedi costata $16. E si vede questo video di queste due persone che allungano questa scala lunghissima, salgono sul bordo del muro voluto da Trump al confine col Messico, e poi dall'altra parte si calano con una carrucola. Ma perché Trump si è sbagliato, l'avrebbe dovuto fare alto, alto, alto, alto fino al soffitto. Infatti, sì, però purtroppo non l'ha fatta, cioè, ecco colpa sua. Comunque vogliamo dirlo subito come sta costruendo questo muro? Lanciamo questo mini angolo di Trump? Trampiamo? Allora, praticamente, adesso vado a ricercare la cosa. Oh, che ci mancava. Praticamente, che cosa è successo? Che Trump sta cercando di fare questo muro, costi quel che costi. Anche perché anche tanto lui, si sente libero anche lui, come l'Egitto. E quindi ha deciso di costruire il muro facendolo passare per un luogo sepolcrale dei nativi americani. Che tanto che cazzo ce ne frega, sono morti quelli, no? Cioè, come no, se sono nativi sono nati. Oh, no, sono i morivi. I mortivi. I mortivi americani. Cioè, no, questi i mortacci. I mortacci americani. Ovviamente questi indiani di qualche tempo fa. No, però scusa, no, tu così nel deserto del Navajo. Scusa, sono americani o sono indiani? Sono nativi americani. Quindi sono americani? Sono merindiani. Non ho capito. Sono merindiani. Sono meringati. Allora, questi merindiani, che praticamente sono gli indiani d'America o nativi americani, avevano questo luogo di sepoltura nel deserto del Navajo, non so come cacchio si chiama. Vabbè, comunque in quelle zone depresse, brutte, sbrulle, deserti, che ci fanno nel deserto? Ci seppellisci i morti, si conservano tanto bene, se siccano, se mummificano, se tengono bene. Luogo sacro, tra l'altro anche patrimonio dell'UNESCO, perché tra l'altro c'erano dei cactus secolari, belli questi cactus che stavano lì, erano sopravvissuti un po' a tutto, no? Tranne che a Trump. Perché se ci deve passare un muro, Trump te li fa saltare in aria, te ci mette una bella carica di C4 e fa schioppare tutto. Vabbè, scusa, cioè c'è gente tipo Elon Musk, tanto sannato, che sta deforestando mezza Berlino per fare la gigafactory della Tesla. Ora ci stiamo a preoccupare per, sì, un cactus nel deserto? Sì, però quell'energia sarà pulita. Sarà pulissima proprio. Bellissima. No, vabbè, ma sono alberi vecchi, vanno abbattuti, poi cadono, uccidono gente. Ma torna, guarda che la natura uccide. Ricordati, più c'è natura meno c'è uovo, non è un caso. Ragazzi, stavo leggendo proprio l'altro giorno un parallelo tra il nostro amato coronavirus, e hanno fatto un rapporto che spiega che praticamente hai presente l'ippopotamo? Quello che uccide un sacco di gente all'anno? L'ippopotamo fa 500 vittime all'anno in media. Il coronavirus non ci sta arrivando così, ma insomma. Vabbè. Ne ha fatte più di 1000, però insomma. Vabbè, ho capito, però l'ippopotamo. Diciamo che l'ippopotamo può contare su un palco di gente da uccidere inferiore. Quello, cioè, sì, se no le ucciderebbe molto di più l'ippopotamo. Esatto, cioè, l'ippopotamo perché non può, perché non se ne esatto. Trova. Cioè, che sei tu, vieni qua che ti ammazzo. L'ippopotamo è stronzo, diciamo. Cioè, non guarda in faccia a nessuno. È un altro che gode di diritti e di libertà assoluta. Di fare come cazzo gli esatto, pare. Esatto. Cioè, gli stai sulle palle, te calpesta. Cioè, che problema c'è? Invece che no. Poi, che poi voglio dire, l'ippopotamo nel nostro immaginario noi di quarantenni immaginiamo l'ippopotamo. Tommaso, che Tommaso no, era tanto buono. No, Pippo dei pannolini. Ah, po, che per merda a me, perché po è quella. Merda. Ciao, sono Pippo. Capito, bravo, complimenti. Che cosa fai? Uccido le persone. Era bellissima, sarà bella, però finita così. Cioè, però mentre uccido le 500 persone l'anno, vi do il paracazzo, il paramerda, insomma. Esatto, tu dice Leo Vargion, Trump è quello che Montemagno definirebbe un pazzo furioso, perché tutto il resto del mondo come lo definirebbe? No, non è... ma no. Non è per sminuire Montemagno, però insomma. Trump, cioè, ma, oh, scusate, ma se dovessimo pure noi fare un muro per dire a Roma, e se dovesse passare in mezzo alla prima porta, che fai? Non la faccio impennare prima porta? Beh, a Roma tendenzialmente i muri, invece di farli, li vediamo crollare, come è successo per esempio a Muro Torto e in altre. Ma torta apposta, perché la prima o poi doveva cascare. Perché era torto. Era torto. Che fai? Non fai saltare queste tombe? Che ci fai con le tombe? Cioè, sono tombe, gente morta, non è che si sta lì a rompere il cazzo, si fa saltare in aria e via. Cioè, boom! Boom! Bam. Vabbè, ma parliamo di cose più allegre, dai, perché il nostro Trump, sì, ci piace citarlo, però insomma, piccole dosi. Sapete che oggi è la giornata, la festa del vermicio. Infatti, per festeggiarlo sono andato a nutrire i gatti dei Pizzi oggi. Oh, perché ripetiamo, non scherzavamo prima, i Pizzi sono a Milano. A Milano c'è una succursale della Cina, fondamentalmente, ma anche di Rantanio. Noi siamo tanto succursale della Cina in generale. Comunque, l'unica, sono andato lì a fare cose loro e hanno lasciato i gatti a casa. Che poverini, ovviamente il gatto quando sta da solo a casa che fa? Baby dorme, no? La festa. Ma no, guarda che gatti sono proprio, cioè, so, avendocene avuti. Allora, tanti, c'è questo gatto, no, si entra in modalità, entro in modalità sta buono. Ma ozio. La modalità fa cazzo. Conservano energie perché per fare disastri quando tornano i padroni. Il gatto lo sa. Il gatto lo sa che tanto è inutile fare i casini quando nessuno lo può vedere, esatto, e sentire. Quindi sta lì, aspetta, diciamo che diciamo somatizza la cosa. Dice, diciamo, cazzo te in culo. Allora, così. Quindi sono andato lì e c'era Gamera, il gatto giovane. Giovanile, che ovviamente mi guardava da 5 metri. Prima di entrare pensavo che ci fossero i ladri. Perché ho sentito delle cose che cadevano dietro la porta. Cioè, che cala, sta l'assassino. Quindi non è vero che non fanno casino quando non c'è nessuno. No, ma tu, ho aperto la porta e non c'era nulla dietro la porta. Però i rumori li hai sentiti. Li ho sentiti. Perché pensava che fossero i Pizzi, probabilmente. Quindi. Però visto me da 5 metri, perché il gatto Gamera te spia da 5 metri, te guarda, e poi appena si avvicina, si allontana. Cioè, perché ti avvicini? Aspetta, appena si avvicina, si allontana. Oggi sei appena oggi ci si avvicina, si allontana. Troppo filosofico. E quindi ti dice: ma chi sei fio? Perché vieni? Perché mi rompi? Perché a mi chi guardi? Si fio? Chi sei fio? E quindi si allontanano. Però, siccome che oggi si erano spazzolato tutto, cioè cibo e acqua, cioè praticamente erano a secco penso da metà giornata. Allora, ho cominciato a cambiare l'acqua e il gatto Gamera si è avvicinato facendo le fusa, facendo tutto simpatico, peloso, capito? Il classico gatto affettuoso. Ha dato due ciancicate alle crocchette ed è diventato su. Di nuovo è diventato. Che cazzo vai? Via, mi toccare, mi guardare. E si è allontanato. Cioè, si è comportato più o meno come un gatto. L'altro gatto, il gatto Godzilla, che ricordiamo è quel gatto delle problematiche. Però è il gatto decano di casa Pizzi. Decano, decane. Il gatto. Che stava lì praticamente seduto, sdraiato sul letto. Svaccato sul letto di Pizzi con gli occhi aperti, speculari, quelli che ti abbaiano. Stavano lì, gatto, gli occhi che abbaiano. Gli abbaglianti, senti, come esatto. Che stava lì e guardava. Cioè, ieri l'ho lasciato lì, che ti stava lì e guardava. Ma l'ho trovato che stava lì e guardava, non si è mosso in 24 ore, è morto. Praticamente tu hai spoilerato la trama del prossimo film di Dario Argento, non volevo. Esatto, cioè, il gatto è morto, cioè, questo è morto. È morto con gli occhi aperti. Cioè, oh, ma sei vivo? Ha fatto un mugolio, ha detto ok, sei vivo. Perché non vai a mangiare? Boh. Perché non vai a bere? Boh. Perché è meglio fare la scena del morto, poi quando te ne vai... Esatto, uccide gente. Perché anche il gatto c'ha libertà assoluta. Oh ragazzi, alla vostra, noi intanto beviamo birra, che serve per pulire, che serve come l'aglio, se tu leggi internet, serve praticamente per eliminare il coronavirus, per proteggersi dal virus. Se tu vedi tante queste fake news che girano, sei immune, cioè che dice che mangiare tanto aglio aiuta a prevenire il coronavirus. E certo, se stanno tutti quanti a 40 metri di distanza, esatto, cioè, che cazzo. C'è da dire che l'aglio è un antibiotico naturale, però il virus se ne sbatte degli antibiotici. Sì, esatto, perché gli antibiotici non servono a un cazzo con il virus. Però che vi devo dire, la gente si diverte con poco comunque. Ma beh, sì, io cercherei infatti su internet rimedi contro il coronavirus. Ma provo a fare questa ricerca, rimedi contro il coronavirus. Sì, esatto. Nel frattempo da casa io vi consiglio di fare o di non fare, se siete in compagnia, soprattutto nella vostra giovine metà, una ricerca di immagini su Google di muschi. Sì, lo, sì, sì. Sì, no. Fatelo perché scriviamo però... in chat come si scrive però. Muschi. Muschi. Come muschio? Pullare di muschio. Muschio, muschi. Muschi. Ok. Io intanto dico, ho fatto il classico test di autocompletamento per vedere poi effettivamente il livello di psicosi suggerito da Google. Ho scritto rimedi contro il e in classifica abbiamo vomito. Il vomito? Cioè, questo lo voglio vedere dopo. Okay. Rimedi contro il raffreddore. Beh, vabbè, ci sta. Rimedi contro il mal di gola. Il mal di testa. Russare. Il singhiozzo. Il mal di pancia. Okay, e adesso... non c'è il coronavirus. Però adesso scrivi il co. Vabbè. No, scrivi il co. Colesterolo. Vince ancora il colesterolo. Questo ha cercato Salvini, sono sicuro. Sì, sì. Poi? Poi abbiamo il coronavirus, però solo sulla seconda lettera, tra l'altro. Poi abbiamo il colpo della strega, il colpo di sonno, il colon irritabile, e se state ascoltando OGM di colon irritabile sicuramente ne sapete qualcosa. Il colon infiammato, perché ribadiamo, e oppure il collo bloccato. Esatto. Chi è che non fa ricerche del genere? Comunque andiamo a vedere qual è la soluzione del coronavirus, perché... Vediamo. Allora, scegliamo la fonte dalla quale attingere. My personal trainer è abbastanza serio. Attenzione. Quindi potrebbero esserci informazioni veritiere. Sì, sì, perché effettivamente ci dice... I coronavirus sono virus a RNA che nell'essere umano causano infezioni respiratorie lievi nella maggior parte dei casi e gravi solo raramente. Vabbè, adesso non facciamo quark, però insomma, che cosa sono, l'origine, perché si chiamano, storie, epidemie... Vabbè, questa praticamente l'ha presa un po' lunga. Sì, sì, perché è un po' wikipediano, insomma, Come si trasmette, periodo di incubazione, i sintomi, le complicazioni, la diagnosi, la terapia. Eccola qua. Come si curano i coronavirus? Non esiste alcun trattamento specifico contro i coronavirus e le infezioni che questi ultimi provocano. Adamo Ri. No, non è vero. Non ho detto, no. In generale, un paziente in buona salute con una comune infezione da coronavirus, i medici raccomandano di stare a completo riposo fino a scomparsa la sintomatologia, bere molti liquidi per favorire la reidratazione ed evitare la disidratazione. Non vale l'alcol. Perché? No, perché disidrata. Bere, l'abbiamo detto, assumere farmaci antinfiammatori e analgesici contro mal di gola e febbre. Ibuprofene, paracetamolo. Sì, ma queste sono cose serie. Non devi andare su My Personal Trainer. Vai su un'altra cosa, vai. Andiamo, qualcosa. Tipo libero, il forum delle donne, verità, queste cose qua. Qui. Cioè, allora, rimedi omeopatici prevenire e curare il coronavirus. No, questo mi piace. Vai, vai. Dove? Aspetta, non lo trovi. Rimedi omeopatici per cioè, l'omeopatia praticamente tu. Ma devo cercarlo. No, c'è lì, guarda, eccolo lì. Sotto quello lì, vai. Wired? Ok, no, penso Wired. Che sia seria, insomma. Allora, rimedi omeopatici per prevenire e curare il coronavirus sono una sonora follia. Scusate però a sto punto, scusate. Anti-CD13 e Stannum sono stati proposti rispettivamente come un vaccino omeopatico e per ottenere impensabili miglioramenti qualora si contraesse il virus di Wuhan. Ma forse è il virus di Wuhan, quello di Wuhan, sì, cioè può essere quello. Sì. Ovviamente non funzionano affatto, ma qualcuno tenta di venderli e promuoverli usando argomentazioni senza basi scientifiche. Ripetiamo la fonte Wired, perché sennò poi magari ci attribuiamo qualcosa e meriti, meriti cosa abbiamo. Nel bene e nel male lo stiamo leggendo da wired.it. Quante cose si scoprono. C'era da aspettarselo. Insieme a ragionevoli promesse sull'arrivo imminente di vaccini e cure per il nuovo coronavirus 2019, assurde formulazioni di diete ad hoc per prevenire il contagio, leggende metropolitane sulle mascherine protettive ed episodi di sinofobia, è arrivata anche la proposta di usare l'omeopatia per combattere l'epidemia causata dal coronavirus di Wuhan. Una proposta, tra l'altro, che riesce a mettere insieme in un sol colpo complottismi, tesi privi di basi scientifiche, follie sanitarie, consigli deleteri, allusioni fantomatiche e losche trame internazionali. Cioè, raga, un film di serie Z proprio, ma tipo... il caso virus specifico creato in laboratorio, queste cose. Sì, no, beh, guarda, si allude a un virus creato in laboratorio, diffuso o per incidente o per precisa volontà. Esatto. È un dubbio legittimo, insomma, dai. Poi. È scappato o se lo fatto scappare? E se è scappato perché l'ha deciso lui o l'ha deciso qualcun altro? Chi è? Lo scienziato che ha lasciato la porticina aperta o spiraglietto è quello della prigione del virus. Esatto. Che poi in realtà poi uno ci scherza, però poi alla fine è vero anche che, Marco, la notizia oggi è stata in qualche modo confermata. Pare che il presidente cinese Xi Jinping e quindi tutta la pletora degli alti dirigenti del Partito Comunista Cinese sapessero dell'esistenza di questo virus diversi giorni o settimane prima di renderlo pubblico al mondo. Si parla del 7 gennaio. E ha portato la Befana. Sì, sì, sì. Ma in realtà pure prima, secondo me, perché già da dicembre c'erano questi casi. Però sì, il primo medico che l'aveva diagnosticato, che peraltro era tipo un dentista, una cosa del genere, che poi è morto, aveva lanciato l'allarme e non era stato assolutamente preso in considerazione a dicembre. Però vogliamo dire una cosa, Marco, anche per abbassare un pochino i toni della psicosi. Io so che tra gli ascoltatori di Runtime non ci sono persone particolarmente come dire, suggestionabili o impressionabili, però comunque diciamolo che già da diversi giorni la tendenza della crescita del virus è in calo. È normale, quando comincia a bloccargli le fonti di riproduzione è normale che prima o poi si saturi, sperando che non si aprino nuovi focolai a cazzo le cane, perché ovviamente... Allora, il pericolo vero adesso è che il virus possa saltare in Africa e poi da lì fermate che te fermo. Cioè, infatti... Cioè. Lì Salvini impazzisce poi. No, lì proprio è la festa. Salvini stappa il motion town, perché a quel punto avrà la scusa per dire: dobbiamo chiudere tutte le frontiere di qua di là. Beh, in realtà ce l'avremo davvero in quel caso. Purtroppo sì. Potrebbe nascere veramente l'esigenza. Per il problema qual è? Al di là degli sbarchi, che tanto l'80% della gente non si può muovere per povertà, a prescindere, per cui muore. No, il problema qual è? Allora, primo scenario: i casi di contagio del coronavirus arrivano più ragionevolmente nei paesi un pochino più industrializzati dell'Africa, perché dubito che il virus si possa spostare, perché un cittadino cinese o comunque vado in Barkadurki, vada esatto in Sbargabambi, esattamente, che è la provincia del Turbumbi. Facciamo un'altra ipotesi. Zimbabwe, com'è quello del principe cerca moglie della... non me lo ricordo. Zamunda, però, sì, Zamunda. Se vai Zamunda è capace che il cinese ce lo trovi, che ci stanno i sordi, quindi giustamente. Però facciamo un altro caso un po' più, come dire, vicino a noi, anche un po' più presibile. Prendiamo un paese dove la democrazia è fiorente, dove c'è tanta libertà, esatto. Tipo l'Egitto. L'Egitto, a caso. Arriva un cittadino egittico, o comunque sia, che per qualche motivo scopre di essere malato quando arriva sul suolo egittico. Cosa fanno gli egittici, secondo te? Allora, la forma di quarantena democratica, allora, innanzitutto, dell'Egitto, quale può essere? Dobbiamo dare per contato che chi è ammalato lo dica, lo capisca, lo dica al dottore, che a sua volta si rende conto: ah cacchio, questo è il nuovo coronavirus. Allora, nel caso in cui succeda questo inanellamento di situazione, l'Egitto utilizzerebbe la grande libertà di cui è a disposizione per far sparire la persona, credo. Cioè, far sparire i sintomi con la persona. Con tutte le persone che gli sono state vicino. Per non sbagliare, dottore compreso, esatto. Pilota dell'aereo. E fanno una quarantena, sì. Una normalissima quarantena per sempre. Per sempre, una bella quarantena per sempre, e risolvono il problema. Però, ma a parte scherzi, c'è da dire che è efficace. Il problema è che non è detto che se ne accorgano. Cioè, tu che sei malato potresti infettare 50 persone, e lì c'è il panico, perché poi in Egitto non potrebbero curarla. Giustamente, come dice Pepe Rizzard, il malato egittico viene quarantenato nella piramide. Esatto, per sempre. Comunque, in ogni caso, non, lì in Africa è difficile proprio generalmente riuscire a diagnosticare e a curare in generale, insomma, proprio ci sono delle piccole difficoltà. Magari nel Sud Africa qualche possibilità in più di quarantena o di cose fatte un po' meglio ci sono, però il problema è... ma il Sud Africa è giù, non vengono su. Esatto, i nostri problemi sono quelli, i paesi della subsahariano sopra, subsahariano sopra, Tunisia, Marocco, Egitto, eccetera, Nigeria, quella zona, e lì c'è possibilità che ci possa essere. Ci sono tante, stanno le febbre gialle, c'è il coso, come si chiama, Vabbè, insomma, belle malattie ci sono, però non ci arrivano, dai, siamo fortunati. No, vabbè, comunque, anche perché io credo, adesso non voglio fare il dottorino, non voglio dire niente di scientifico, quindi perdonatemi. Ce ne guardiamo bene, insomma, dire cose semplici. Sto per dire una cazzata, tanto una più una meno, però secondo me nei climi caldi la diffusione del virus è anche rallentata dal fatto che comunque... Quindi c'ha ragione Trump, che quando arriva la primavera il virus muore? Non credo così, no, Però diciamo magari, come dire... Alla fine stiamo parlando di un'infezione polmonare non particolarmente diversa da quella normale, da quella più comune, ecco. È solo che ha un tasso di infettività, di trasmissione significativo, alto, e ovviamente dove le cure sono precarie. Basta parlare di noi. Diciamo sempre stufato. No, invece io mi volevo soffermare su questa cosa interessante, quasi a, come dire, uno spunto che neanche Luciano Onder di Medicina 33, perché Leovargian qualche minuto fa ci ha scritto: la birra è la panacea di tutti i mali. Nel Medioevo era cosa comune darla anche ai bambini a mo' di sciroppo. Sì, sì, infatti era il periodo in cui la gente si ammazzava per niente, giusto? Considera che la vita media era 20 anni. Esatto, però erano 20 anni di alcolismo molesto, cioè, esatto. In cui si andavano a far crociate, si andava alla pugna perché si era ubriachi fondamentalmente. Ok, vabbè, ci sta, anche quello è un modo per controllare i mali. Insomma, ci sono altre notizie interessanti, no? Sarebbe bello quello però di usare il motore di ricerca di Google per vedere le, che ne so, cioè... cosa voterò, cioè queste cose, vedete che cosa suggerisce Google. Potrebbe essere una rubrica. Ogni settimana ci scegliamo una o due chiavi di ricerca e... Cioè che chiavi di ricerca? Ah, suggeriteci, visto che voi siete più sobri di noi, suggeriteci che cosa cercare, cioè una cosa da mettere sulla barra della ricerca di Google e vedere che cosa esce fuori. Che cos'è, diciamo, che viene cliccato. Dai, suggerisci qualche cosa, che sennò noi non sappiamo che cazzo fare. Questa è la cosa. Esatto, però facciamo una cosa: mentre loro ci pensano, noi magari ci ascoltiamo un brano, anche perché devo dire che io ho preparato una playlist abbastanza ampia questa sera. Qualcosina mi è avanzato e siamo in pieno momento revival, e quindi adesso vi beccate. Con le mani sul tavolo, ve voglio, non sotto. Like di cosa che dicevi poco fa? No, dicevo che praticamente questa è una di quelle canzoni che se non vedi il video non è la stessa cosa, cioè... Io stavo rimembrando quella fase della mia vita in cui sono passato dalla Mu a Samantha Fox. Però poi, diciamo, la mucca al di là del, diciamo, dell'oggetto di certe pulsioni, poi, diciamo, come dire, invertendo l'ordine di certi addendi, il risultato non cambiava. La mucca. Ma basta con la mucca. Senti, salutiamo Pier G che intanto ci ha raggiunto e ci dice buonasera a tutti. Buonasera a te, Pier G. Ciao, pensai che ci avevi fatto fino adesso. Avresti potuto allungare un pochino e ti saresti salvato da questa invece serata. No, niente, cioè, mortifera, una serata mortifera. Mortaccina. Vabbè, anche. Mortacifera. Vabbè, niente, insomma. Senti, ma vogliamo invece prendere questa notizia? Allora, al di là del fatto che dopo ci sarà da bestemmiare un attimo perché il nostro antieroe ogni settimana ci dà spunti, però nel frattempo io volevo raccontarvi di questa storia successa a Ferrara, però è tratta dall'edizione bolognese della Repubblica. Ferrara, arrestato vicino stalker, mascherato da Bertinotti, lanciava frecce con la balestra. Io, perché adesso non ho un applauso, ma facciamoglielo noi, perché... Vabbè, no, è pericoloso lanciare le frecce con la balestra, insomma. No, ma... potresti ferire le persone. Ora, io vorrei capire se il negozio cinese di turno aveva solo la maschera di Bertinotti o se se l'è scelta apposta. Un po' come poi il break, no? Che andava con gli ex presidenti. Esatto. Lui, cioè, con gli ex comunisti. Cioè, con gli ex... tu. Poi Bertinotti è un altro di quelli che ha fatto, come dire, una parabola discendente piuttosto strana. Si è fatto un mandato da... che era presidente del Senato o della Camera? Non lo so. Si è fatto anche un ictus, se sapeva questo. Sì, vabbè, si è fatto diverse, sì, sì, diverse cose. Diversi capi di Kashmir e poi, insomma, così. È riapparso pubblicamente qualche tempo fa sparando qualche cazzata che neanche Marco Rizzo, però, insomma, vabbè. Poverino. Comunque, insomma, adesso viene utilizzato per celare delle marachelle, insomma. Ma ha ferito qualcuno o si tirava di balestra su cose, oggetti? Allora, sembra che questo tirasse le finestre, tirasse le frecce di balestra contro la finestra del vicino. E si trattava di un operaio di 41 anni di Scortichino di Bondeno. Non so se l'ho letto. Secondo me, secondo me è spurgare questa, cioè, la stessa cosa. Lobby, ci puoi dare un... tu che sei il nostro corrispondente dall'Emilia, ci secondo puoi era Lobby meglio? Che andava a tirare di balestra camuffato da Bertinotti. Ci potrebbe stare. Lobby, ci sei? Cazzo. Non lo so. Lobby, oh. Dai, su, rispondi. Lobby, Lobby, dai, dici perché. Dai. Comunque, vabbè, bella storia, complimenti, bravi. Ma poi questo, allora, cioè, fammi capire, questo qui praticamente andava con la balestra. Non è che andava dalla finestra al vicino. Sì, ho capito, ma perché te devi mettere la maschera di Bertinotti se stai dentro casa? Lo sanno che sei te. Cioè, questa è la cosa strana, ma sei sicuro di aver letto bene? Sì, sì, tra l'altro c'è anche scritto: in casa, condivisa con la moglie, la cui posizione al vaglio degli inquirenti, sono stati trovati numerosi coltelli, una fionda con biglie d'acciaio. Coltelli un lo trovano anche a casa mia, i coltelli, ma ci cucino, cioè. È un passamontagna, attenzione. Ma anche un uniforme da tenente paracadutista all'esercito italiano, sulla cui provenienza sono in corso verifiche, perché questo tizio non ha mai fatto il militare. Quindi, insomma, sai, quegli esaltati, cioè, quindi in realtà lui non è che si metteva la maschera da Bertinotti e usava la balestra. Cioè, gli hanno trovato la maschera da Bertinotti, però lui si divertiva nel frattempo a tirare di balestra. Sì, lui si copriva il volto, quindi l'unica... Cioè, lui si affacciava dalla finestra con la faccia da Bertinotti e balestrava il vicino. Esatto, la macchina, il cortile, le finestre. Pensando di non essere riconosciuto, di farla franca, cioè qual è il suo scopo? Ma immagino, allora, proviamo a psicanalizzare. Ma voglio capire, capisci? Perché, insomma, cioè, finché stai per strada, capito, metti la maschera e potresti non essere beccato. Ma se ti affacci dalla finestra di casa tua, insomma, veramente qualcuno che magari sei il proprietario di quella casa, no? Non lo so, cioè... Lobby, vabbè. Eccolo, allora... Ero al cesso, che cazzo volete? Ah, Bertinotti, la rivoluzione non dorme mai. È lui. È lui, sicuramente è lui. Vabbè, niente. No, però questa cosa da paracadutista, l'uniforme da paracadutista, allora ce la deve spiegare. La cosa del paracadutista, secondo me, si è semplicemente fatta inculata. Si è fatta portare da qualche amico. Può succedere, eh? Cioè, perché ci dovesse avere... Cioè, per me è più strano avere in casa una balestra che una divisa dell'esercito, che magari hai comprata ai mercatini. Beh, cioè... aspetta. è più facile comprare una balestra al mercatino. La divisa, la divisa d'ufficiale dell'esercito non la dovresti poter comprare ai mercatini. Dipende. Una mimetica se generica, vera, sì. Se è vera o falsa, insomma. Non lo so. Lobby, era vera o era falsa? Vediamo che ci dice. Esatto. Ma poi perché, cioè, passamontagna... Aveva un po' di tutto, questo doveva essere un esaltato, insomma. Poi magari per lui, come dire, Bertinotti era una nemesi, no? Io questo me lo immagino un po' un esaltato. Beh, cioè, più di destra che ego, di sinistra, cioè, che... il suo ego, perché mettersi la maschera di qualcuno che non ti... Il lato demoniaco, cioè, cos'è che cioè, per esempio, tu non ti metteresti la maschera di Trump per andare a fare una stronzata? Sì. Magari lui vedeva in Bertinotti la nemesi, la, come dire, l'ultimo vessillo di un comunismo mai nato in non Italia. Trump non è un buon esempio, però, cioè, che comunque lui fa le stronzate, per cui non è che dice, vabbè, metti le maschere di uno che fa le stronzate per fare le stronzate, non c'ha tanto senso, cioè, non ti sta a maschera, stai un po' attenzione, perché Leo ci pone un quesito di guselliana memoria. Che però... mi una panza calla in culo. Ma quasi, questa è un po' è reinterpretata. Perché ci chiede: ma è meglio una freccia calla in panza o una freccia calla in culo? Ma fanno male tutte e due. Grazie. Ma dovendo scegliere, per me il culo resta sacro, me la becco in panza con meno amarezza, guarda. E poi dopo vieni sodomizzato da morto, anche se non te ne ricordi, cioè, perché sento sei morto, quindi. E chi se ne ho capito? A quel punto, cioè, vilipendio del cadavere, senza... Ricordatevi sempre che la morte è un problema per chi resta, non per chi se ne va. Esatto. Tra l'altro, vabbè, Lobby invece, sono preoccupato perché Lobby preferisce la freccia calla in culo. Vabbè, sono gusti. Sì, sì. Perché essere preoccupati? Come disse tanto tempo fa in radio Fabio Volo, come il gatto si lecca il culo, tutti i gusti sono gusti. Esatto. Questa è una massima che ho fatto mia, anche se la trovo un po' strana. Però, vabbè, e niente, comunque, per arrivare poi all'argomento politiclou della giornata, che poi mi ha fatto anche un po' infervorare e che mi ha portato anche a discutere nel frattempo con delle persone su Twitter, no? Perché oggi... Ma chi te lo fa fare? Infatti sì. Oggi, ovviamente, voi sapete che l'ex ministro è attualmente... che cos'è? Il presidente della Lega, il segretario... Il guarda Segalli. Il bevitore di Mojito. Il mastino del Mojito. Il mastro di Mojito. Vabbè, comunque Salvini. Ma Salvini, che come Salvini. Sapete, ogni giorno praticamente riceve dalla sua cricca di esperti delle cose di web i trend. Cioè, le cinque, stanno discutendo i 5 trend, lui ci deve fare una frase sopra. E lui entra a gamba tesa, ovviamente cavalcando la posizione che in quel momento va per la maggiore. Oggi esatto, allora, il massimo è magari delle 5 frasi, delle 5 parole trend, riuscire a mettere tutte insieme in una frase sola. Questo è il massimo, che però anche due o tre vanno bene. Se gliela scrivono ci riesce da solo. Non è facile, però anche due o tre può andare bene. Però cos'è che ha fatto? Oggi è tornato a parlare ad cazzum dell'aborto. Esatto. E fondamentalmente cosa dice? Sono uscito con quelle frasi che ti lasciano sbigottito, perché sostanzialmente dice l'aborto non può essere una forma di non può essere un anticoncezionale, perché lui si è immaginato. Allora, io ho sentito mentre dicevo questa frase, lui diceva che praticamente un'infermiera di un ospedale gli ha detto che c'erano delle donne che lui ha specificato di essere non di Roma o di Milano. Certo, perché okay, che affollano i pronto soccorsi, che erano sei volte che andavano a richiedere per un aborto, a richiedere informazioni per un aborto. E lui diceva: ma perché non si possono usare queste cose? Sono... A parte che comincia con: non sono fatti miei, cioè io non posso mettere bocche, tutti sono liberi di fare come in Egitto quello che cazzo vogliono. Ma... però non è giusto che si faccia. Allora lo stai facendo una cosa. Ma poi io vorrei capire a Salvini, se chiunque vada Salvini, chiunque, la signora Rossi, Davide Gatti, te, oppure chiunque, gli dicono: guarda che c'è questo tizio che lecca i citofoni. Bisogna fare qualche cosa perché lecca i citofoni. Cioè, lui va su Twitter e dice: il signor tizio lecca i citofoni? Cioè, così. Cioè, qualsiasi cosa tu gli dici, lui è, ci crede e va bene, deve fare una mozione e deve fare qualcosa contro questa persona, cioè, fatemi capire. No, ma che lui strumentalizzi, sì, ho capito, ma cioè, è gravissima questa cosa, è gravissimo, cioè, se io vado, che gli altri ci credano. No, ma se io vado da te, se io vengo da te, tu vai da me e io sono, io qui, non mi trovi, eh. Esatto, se io vengo da te e ti dico: caro Walter, ci sta il mio vicino di casa che è uno stupratore di cani, e tu vai in giro a: ma questo è uno stupratore di cani, me l'ha detto lui, me l'ha detto una persona, anzi no, neanche, me l'ha detto una persona che è uno stupratore di cani, cioè non funziona così. Cioè, tu se devi fare una cosa, un'affermazione, devi avere dei dati certi, quindi devi mostrare dei dati. Non è che se arriva una persona e ti dice una cosa, ammesso non concesso che esista questa persona che ti dice le cose, non è che poi tu gli credi in automatico, sennò sei un cretino. Cioè, Gualdi, ti spiego come funziona il meccanismo. C'è un libro. Su questo libro ci sono la scritte Bibbia. Delle cose. La Bibbia. Cioè, si parla di uno che tu gli dai il pane e lo fa diventare 6 volte tanto, sì, il pesce 2 volte tanto, che cammina sulle... è tutta un'altra serie di queste cose. Ora, tu lo hai mai potuto confutare? No, io neanche ci credo, però. Però, a differenza tua e mia... Bel fantasy, dai. Cioè. Però la maggior parte, una evidente maggioranza di italiani credono che ci sia questo tizio, la domenica gli vanno a portare... È il Nuovo Testamento. Sì, vabbè, però ci siamo capiti, insomma, nuovo, vecchio, medio, lavato con perlana. Ma c'è un medio, insomma, testamento, cioè tra nuovo e vecchio, una cosa, una via di mezzo, no? Lo potremmo scrivere noi. Il medio testamento. Non è anche un testamento, è una cosa media. La media dichiarazione. Il mediamento, il mediatore. Il top. Vabbè, comunque, che ci dice Lobby sull'aborto? Lobby. Lei cosa ne pensa dell'aborto? Vesti i panni del consulente, no? E dacci un'interpretazione che possiamo definire, insomma, con cognizione di causa. Non è un ginecologo, Lobby, dei aborti. Però è stato incinto più volte, quindi... Esatto. No, io ripeto, la cosa strana, cioè strana, assurda, è che un tizio... che ovviamente dice le cose per manipolare, ovviamente, diciamo, influenzare il pubblico, e va bene. Però tu stai facendo la figura di quello che arriva un tizio qualsiasi, ti dice una puttanata qualsiasi e tu ci credi. Cioè, ripeto, io la vedo diversamente. A me, sì, lui non fa questa me. Figura. Lui strumentalizza cose che dicono e altri bene. A suo vantaggio. E lo ripeto, che non so neanche se sono vero. Cioè, il problema non è quello, come, ripeto. È il metodo che utilizzava Murdoch con Sky quando andavano a fare le interviste alle persone. C'è poco da fare. Andavano a fare le interviste ai personaggi scomodi di Murdoch e gli si accusava di cose che magari non erano anche false. E gli intervistatori dicevano: si dice che lei ha fatto questa cosa. Si dice. Si sì, dice. Che non vuol dire un si cacchio. Dice, un cacchio. Livello giornalistico, infatti, si dice, e quelli dice: ma scusi, ma chi ha detto sta cosa? Cioè, chi lo dice? Non esistevano, cioè, era un modo per instillare comunque il dubbio, certo, o la cosa. Anche perché poi con il tipo di reazione all'insinuare, come dire, l'illazione, la confermi o la smentisci, ed è facile che anche involontariamente ti trovi a confermarne una. Esatto. Basta sbagliare la risposta. Comunque, queste donne che vanno a abortire tutti i giorni, insomma, pure loro, ma chi lo fa fare? Insomma, rimanere incinte così? Basterebbe dare accesso ai preservativi. Queste donne che non sono né di Roma né di Milano, cioè, no, assolutamente. Potrebbero essere di Torino, di Milano, però non so. Ma né più verso Roma, cani cattivi, secondo me, intendevo anche più, lui. Un po' più giù, mi sa. Sì. Vabbè. Vabbè, d'altra parte, insomma, lui continua a dire di non essere, che la destra e la sinistra non esistono più. Lui continua a comportarsi. Ma nel senso che lui non distingue più la destra dalla sinistra, cioè per lui un braccio vale l'altro, insomma. Troppo mojito. Troppo mojito. L'importante è passare pippe, insomma. Con una mano precisa, qualunque essa sia, insomma. Sì, che vabbè, io andiamo avanti, vi prego. Cioè, Salvini mi ha stufato. Quest'uomo chiamato Salvini mi ha stufato. Un uomo chiamato Salvini potrebbe essere il titolo di un film. Di film, TV, Marco, che hai visto in questi giorni? In questi giorni ho visto le prime 5 puntate della nuova stagione di Rick e Morty. Oh, interessante. Allora, ho visto le prime 5 puntate, devo dire, la prima puntata mi è piaciuta tantissimo e mi ha riportato proprio a Rick Morty, cioè questo è Rick Morty. Rick e Morty assolutamente è questo, proprio cent'anni, un po' alle origini, cent'anni di Rick e Morty senza insieme, cent'anni di Rick e Morty. Però a un certo punto, la seconda, la terza puntata, sempre cose assurde, sempre cose che fanno anche un po' riflettere, però in realtà cioè quelle puntate te le guardi, dici non ti rimangono, cioè non fanno neanche ridere più di tanto, tutte queste cose assurde che però non lo so, non ci mancava qualche cosa. Metto ok, mi fermo un secondo, riprendo domani. Quindi me la sono rivista il giorno dopo, non le stesse puntate ma le ultime due, e devo dire che quelle si sono riprese, insomma mi sono piaciute di più. Un po' altalenante questa stagione, è vero che mancano ancora 5 puntate che verranno trasmesse nel 2020, 1, 2, 3, quindi fra poco più o meno. Però devo dire che questi primi 5 episodi non sono particolarmente brillanti, secondo me. C'hanno la prima puntata soprattutto e qualche spunto buono negli altri episodi, però il 2, 3, quello del cesso, per capirci, sì, è carina, ma non lo so, insomma, cioè non mi è sembrata particolarmente divertente, non so. Mi ha lasciato, per quanto riguarda proprio lo stile di Rick e Morty, mi hanno lasciato un po' perplesso. Però tutto sommato vediamo un po' come procederà. Io invece ti dirò, le avevo raccontato che stavo seguendo le vicende della prima stagione e poi successivamente la seconda stagione di Young Pope, poi The New Pope. E mentre la prima stagione mi era piaciuta molto perché si delineavano questi i contorni estremi di questo personaggio che era il Papa interpretato da Jude Law, poi nella seconda stagione succede una serie di cose, non la voglio spoilerare perché è finita da poco, quindi è possibile che qualcuno l'abbia ancora vista, che però secondo me hanno trasformato una serie che nella prima stagione era veramente interessante in qualcosa di un pochino diverso, un pochino troppo... È presente la deriva mistica, misticista che ha preso Battlestar Galactica nell'ultima stagione? Qualcosa di simile, diciamo così. Non in paragone proprio diretto, però insomma... Sbinaria un pochettino. Intanto volevo salutare Zio Mischi che dice: mi dispiace ma questa sera vi ascolterò poi. Anche noi ci ascolteremmo poi se potessimo. No, ci ascoltiamo proprio. Zio Minchia, no? Cioè, per me è rimasto Zio Minchia, non so perché, ma perché mi viene sempre che dice: fai delle facce strane, che cosa è successo? No, stavo leggendo che dice Lobby, il pianeta dei serpenti, 3 minuti di solo quello è l'ultima puntata se non sbaglio, la quinta puntata, cioè quello è assolutamente nonsense, però è torna sulla astronave. Ma perché non c'è niente? C'è fatto da mettere di tutto qui fuori nello spazio. C'è di tutto qui fuori. E infatti c'è di tutto. Però no. È bello, cioè è figa, bello. Collateralmente a Rick e Morty. Non so se avete avuto modo invece di vedere il filmato di questo appassionato che utilizzando un software di deepfake praticamente rielaborato. Sono passato davanti. Perfetto. Cioè. Ha rielaborato Ritorno al futuro, sostituendo. Che poi ce ne sono molti. In realtà, questo è solo l'ultimo della serie, mi sa, che ha fatto. O che fanno, perché ce ne sono molti di deepfake con le facce scambiate. Fatto sta che questo appassionato ha sostituito i volti dei protagonisti originali di Ritorno al futuro, e quindi Michael J. Fox e Tom Holland. Con Tom Holland, che è lo Spider-Man dell'ultima versione, e ha sostituito Christopher Lloyd, quindi Doc, con Robert Downey Jr. Sì. Carina come idea. Insomma, devo dire che Tom Holland poi tra l'altro c'ha comunque un come si può dire, un profilo molto simile a Michael J. Fox. Sì, forse un po' sì, quella mascella quindi un po' volitiva. Ce la faccia un po' quadrata come... Quindi lo prende, cioè ci azzecca parecchio, si confondono molto le due facce. Invece, come si chiama? Robert Downey cioè si vede di più lo stacco perché in realtà sono due facce differenti. Molto sì. Però comunque la tecnologia del deepfake è impressionante. È terribile. Ed infatti è bella ed è inquietante allo stesso modo, perché fra qualche tempo ci sarà bisogno, già adesso secondo me c'è bisogno in alcuni casi, ma c'era bisogno di capire se un filmato è vero o falso. Cioè tu immagini qualche tempo fa fecero su Striscia la Notizia, facevano i deepfake, non so se ti ricordi, di Salvini e di con gli imitatori tra virgolette, e fecero il deepfake di Renzi che praticamente faceva un fuori onda e spernacchiava il presidente. Sì, mi ricordo che successe un mezzo casino. Esatto, tra l'altro era palesemente un falso e i miei ci hanno creduto. Ma sentito Renzi che ha detto, che ha parlato male? Fatto, ma che stai a dire? No, ha parlato male delle cose, che faceva dei pernacchie. Se di base non hai la fammi seguire un secondo. Infatti ho visto e lì ho capito insomma che era falso, però in realtà comincia a diventare difficoltoso, perché è difficile proprio in certi casi capire vero e falso. Poi se non c'è conoscenza, e purtroppo in Italia, visto l'età media, la conoscenza della tecnologia di determinate cose non c'è, è facile ingannare la gente, ed è altrettanto difficile poi far capire a questa gente: oh, guarda che ti ha preso per il culo, perché anche se poi capisce e si rende conto che quello che ha visto non era vero, comunque secondo me un po' di influenza gliela dai nella testa delle persone. È difficile poi togliere quella cosa. Sì, una volta che hai instillato, come in Inception, il dubbio, una volta che hai instillato quell'idea, non la togli è più. È difficile. Tra l'altro, io penso che l'attuale deepfake sia, come dire, l'anticamera di qualcosa, di quella tecnologia che io credo da qui a 10 anni permetterà sostanzialmente all'industria del cinema, dell'intrattenimento, di pagare gli attori solo per utilizzare la loro immagine e fare poi tutto il resto informaticamente. Succede pure adesso, perché se consideri che i videogiochi pagano per avere il volto e la voce a volte dell'attore, senza che poi effettivamente reciti a parte la parte vocali, esatto, nel videogioco. Questo abbatterà i costi e abbatterà anche la possibilità delle star di fare più di tanto, come dire, le prime donne, nel senso che troppi capricci non li potrai più fare, perché una volta che hai ceduto i diritti di sfruttamento della tua immagine, che tu voglia o che tu non penso voglia, penso che ci saranno comunque dei limiti, dei veti che possono dare gli attori, perché ovviamente poi se lo metti dentro un film di merda, vabbè, cioè, svaluti anche l'attore, insomma, vabbè, ma l'attore può fare il film di merda anche da solo, voglio dire, guarda Robert Downey Jr., l'abbiamo appena citato, dovrà comunque dare un consenso, Dottor Dolittle, che sta avendo proprio le, infatti, dovrà comunque passare sempre per il vaglio dell'attore, dice ok, mi sta bene questa storia, e comunque un minimo di giudizio ce lo deve avere. Poi in quel caso, no, ma l'Oscar chi lo vince? Cioè l'attore che presta il volto o l'attore che recita effettivamente? Beh, a quel punto l'Oscar lo togli, perché non ha più senso. C'è senso, effetti speciali lo vincono i programmatori. Effetti speciali, infatti, sì. Vabbè, comunque, Marco, io direi... Che problemi loro. Problemi. Che visto che abbiamo introdotto l'argomento, a questo punto lo lanciamo proprio con enfasi. Siamo arrivati alla quarta. Di 10 però, Di 10, di 8. Io lo sai che non ho capito. Perché c'è gente che su internet dice: finalmente siamo arrivati a metà stagione. Manca poco, ormai è quasi finita. Posso tranquillizzare, perché su IMDb ci sono le date di messa in onda di tutti e 10 gli episodi. C'è il titolo del prossimo che esce questo venerdì, ma se c'è la data di uscita è abbastanza diciamo ufficiale. Tra l'altro IMDb e di Amazon, se non lo sanno anche loro. Anche su Wikipedia comunque dice che sono 10 episodi, quindi vabbè, ci fidiamo. Beh, anche perché hanno appena iniziato... Aspetta. Gli ultimi 3 secondi sono quelli che mi piacciono di più. No, però potevo mettere direttamente quelli. Infatti sì, ci dovremmo organizzare. No, però dicevo, hanno appena iniziato a, come dire, hanno pasturato per 3-4 episodi, adesso si dovrebbe cominciare a fare i conti con qualcosa di... Traslineiamo l'induttore sonico del quadrilione del cazzo imperio. Però con i comandi in 3D. Tre volte in 3D, appunto. Cioè, potrebbe arrivare a quel momento? No. La buttano in cacciara con i soliti termini tecnici? No, dai. Allora, analizziamo un pochino questo quarto episodio. Cosa è successo? Intanto che Picard è andato su una colonia una colonia di ricollegamento romulano. Comunque, in ogni caso, la cosa è, dice, ma so vecchio, io mi sa che qua non ci torno più. Fammi salutare sti amici vecchi, va. Fammeli salutare prima che moro. Beh, in realtà non solo. È andato alla ricerca della possibilità di reclutare una guerriera. Una guerriera cazzo di cazzo. Non so come si chiamano. Scams. Che sono famosi guerrieri fortissime, sì, fortissime, che dice, famose, talmente famose che non sono mai comparse in nessun episodio di Star Trek, ma va bene, cioè. Perché sono talmente sgravate, talmente meglio dei ninja, quindi non, sì, nessuno tranne Picard ne conosce l'esistenza. Una setta di sole donne killer, che tra l'altro sono l'esatto opposto dei vulcaniani, perché se da una parte i vulcaniani hanno ripudiato totalmente le emozioni, al contrario questo gruppo sostanzialmente abbraccia la filosofia opposta, cioè le emozioni sono sempre benvenute e soprattutto la sincerità assoluta. Quindi se te vedi in faccia che sei uno stronzo, te lo dice, si toglie il pensiero. Sì, diciamo, l'apertura delle emozioni non devono essere negate né devono essere in qualche modo nascoste, quindi devono essere mostrate e quindi tu vai lui, chiedi l'aiuto e dice, loro, se bella, decidono che sei, che mi date una mano, bella, oh, se sei eleggibile a, diciamo, persona da aiutare, loro ti aiutano. E qual è il però devi spiegare una cosa, cioè perché dopo ci sono due possibilità da quella cosa, perché per esquisito è che poi lo scopriamo alla fine, perché accettano dopo che hanno sentito il tuo racconto per vedere in che tipo di missioni ti devi andare a impiegare, perché possono accettare o rifiutare, perché un requisito, appunto, anzi il requisito fondamentale è che questa missione deve essere una missione, una causa persa, quasi una missione suicida. Esatto. Quindi le conseguenze sono due: una, questa setta non si sente parlare mai in nessuna perché puntata, muoiono. Perché muoiono tutti, oppure sono talmente forti che anche se una casa persa intervengono loro e la risolvono. Queste sono le due cose, cioè non c'è stata via di mezzo, quindi o muoiono o risolvono, non so, cioè questa è la domanda che vedremo soltanto alla fine della stagione, ovviamente. Fatto sta che a un certo punto finalmente siamo entrati a conoscere questo personaggio che vedevamo nei trailer, che presenta il Legolas romulano, Swamps, che è questo personaggio, è questo ragazzo che... Però vediamo delle cose... Devo dire che i nomi... Stavolta i nomi... C'è stato le gemelle, Daji Soji, scusa, quelle sono le gemelle, esatto. Daji Soji, poi c'è sta... Le scucchione, perché ragazzi, vedete... So che è tanto bellina di fronte. Poi quando si mette, ma quando si gira, insomma, c'è sta faccia un po' ciabatta, che è ciabatta la ciabatta, c'è un po' di curva su se stessa. Sì, cioè sapete che il termine scucchia probabilmente è un po' troppo tecnico, quindi se non conoscete la chirurgia estetica, scucchia non vi dice niente, però diciamo che questo mento un po' prominente, allora, un po' pronunziato, sì, cioè, è un po' che ti viene voglia di tirarlo. Comunque si chiama Elnor il romulano. Sì, ce lo scriveva Rizzer poco fa. Elnor, che ovviamente è il nome nipote elfico di Elrond, cioè che è un nome elfico, tra, cioè, sì, proprio, sì, esatto. Cioè, Elnor, figlio di Bar-Manor, praticamente il figlio legittimo di Tauren e Elrond, cioè proprio, che è interpretato da Ivan Evagora, che pure questo è un elfo, che è elfo russo, questo va a vodka, sì, però. Sì, ma... che è questo personaggio che è sessualmente confuso, perché diciamocelo, era un ragazzo orfano che è stato portato da queste monache guerriere, da queste monache guerriere, quindi lui unico uomo tra queste, cioè, donne, ma fatelo andare qualche fa, sì mo ci pensiamo noi, sì mo lo fa mannare, alla fine rimane lì a fare tra lei, che è anche questa anomalia, perché è cresciuto con tutti i precetti di questa setta di sole donne, ma non può diventare a tutti gli effetti portatore sano, esatto, di morte. portatore sano di morte. Fatto sta che quando hanno potuto risbognare Picard non ci hanno pensato, hanno detto ti è tuo, ripiatelo, arrivederlo, che questo tanto a me che sta con te, che sta con noi, pensa a dubbio palle che si fa qua, siamo in 25, tutte donne, tutte rumonelle con le mestruazioni, è un casino ogni mese, quindi portatelo via prima che ci ammazza tutti, o che sbrocchi, si ammazza da solo, portatelo via, ma potrebbe morire pure qua, perché quando si incazziamo noi in quel periodo, lascia sta. E quindi alla fine lui decide di portarselo dietro, ma all'inizio lui dice no, ovviamente no, mi spiace, ma siccome che mi hai abbandonato, perché allora in questi quattro episodi abbiamo capito che Picard è un po' stronzo, è stato, è no, sparito allora, un po'. Ricordiamoci, cioè, allora no, aspetta, stronzo non è che sia stato, è che lui è cazzo, stato tradito, dai, dalla federazione a un certo punto, e a quel punto ha detto vabbè, mo ne frega più un si cazzo, è mortificato, però, cioè, però capito, in una cosa è sempre stato coerente dai tempi di Wesley Crusher in poi, ma anche che prima, ragazzini, non che, glielo, che ragazzini cazzo, proprio, cioè, non ci sa fa. Però c'ha provato, no, quello ci però provava, lui c'ha, vabbè, quello perché si era ammorbidito nei decenni precedenti, ricordiamoci, anche, anche con Wesley Crusher un pochino si è ammorbidito negli anni, no? Rispetto ai primi, si è ammorbidito perché intanto diventava sempre più adulto e quindi alla fine, ricordati la prima volta che trattato, lo vede seduto sulla poltrona in plancia, la mia sedia, si è bruciato con lo sguardo lui e la madre. Esatto. Quindi poi nel tempo insomma si è un po' ammorbidito, sì. Vabbè, fatto sta che tutti insieme allegramente salgono sulla nave del non del prima aver trucidato Barbarossa. Un romulano che boh, trucidato, è stato chirurgico, gli ha staccato la testa con allora, un pendente di katana. Poi dite che Picard con l'età non si è diventato un pezzo di merda. Allora lui praticamente se ne sta andando per i cazzi sua. C'è un bar su cui c'è scritto solo romulani, e lui un posto, deve andare in un posto dove ci sono solo romulani. Io non ho visto nient'altro che romulani, dicono che ce ne sono altri, ma ora la domanda è, cioè, ma aspetta, no Marco, okay, però analizziamo questo aspetto, okay. Stai in un posto pieno di romulani, solo romulani, nient'altro che romulani, a che cazzo serve un cartello solo romulani? Infatti, cioè ti pigli per il culo da solo, esatto. Però vabbè, in ogni caso lui che fa, vede sto cartello, lo butta per terra, ci entra dentro e comincia a fare come cazzo vai. Permetti che il romulano razzista un po' solo del culo, cioè fondamentalmente un prima po' romulani, prima romulani, è quello là. E quindi il Salvini di turno, che poi finisce poverino trucidato, diceva mamma rotti i coglioni. Ma secondo te quello stava bevendo birra romulana o mojito romulano? Secondo me è mojito romulano. Comunque esatto, in ogni caso stava lì, prova a chiedere qualcosa da bere, ovviamente sono culo, arriva, ah, sa perché io ero senatore, lei quando ha fatto la come si dice, la quando ci ha preso per il culo a tutti, esatto, lei ha fatto questo bel discorso che ah, tutti quanti salverai, quelle lacrime, e poi a un certo punto te sei dato che fatto non è una colpa sua, però no, ha fatto un po' pippa, se n'è andato. Vabbè, però scusami Marco, quando i vertici della federazione che tu rappresenti ti dicono chi te se incula, cioè tu da solo, obiettivamente, che poi fa? Non fa niente, però perlomeno torni e dici guarda raga, io non posso fare più niente. No, è proprio sparita, ma è quella sta cosa, cioè c'è certo tutto dato, sparito, ha fatto il vecchio più che il vento. Cioè pure la chi era? Ah, pure Raffi, che comunque quando lui ha dato le dimissioni senza dire un cazzo, comunque ha dato le dimissioni pensando che non l'avrebbero accettato, lei l'hanno licenziato. Invece hanno detto sì, vabbè, ciao bella, ciao Luke, ciao, starò bella, eh. E lei l'hanno licenziata subito dopo. E non si è fatto più vedere lui, pure manco con lei. Quindi, cioè, è un po' pezzo di merda è diventato. Cioè, io non lo so perché. Cioè, vabbè, ma io più che pezzo di merda, direi, cioè, che io capisco essere disilluso, quello che no, ti pare. Ma l'umiliazione però, e la delusione ti porta a ritirarti a, ho capito, a però, poter ciao, come stai? No, merda, vabbè, come stai? Vabbè, cioè, vabbè, un ciao ogni tanto. Cioè. Io devo aprire la parentesi, in un mondo pieno di teletrasporto che cazzo fai, va in giro col taxi? No, però questo, vabbè, questo tu penso, vabbè, io questa è una cosa tu te la domanderai a vita, ma infatti questa non bisogna mai farsi le domande su certi telefilm e anche film. Comunque, alla fine decidono tutti quanti di partire. Abbiamo fatto la conoscenza dell'artigliere sudamericano, anche la versione olografica d'emergenza dell'artigliere. Sì, perché praticamente all'equipaggio, sì, al medico olografico d'emergenza, che è la persona della sirena. Esatto, l'equipaggio della sirena, che è la nave con la quale si muovono, che, di cui voi non sapete il nome perché in realtà non lo dicono, però si chiama la sirena, è pieno di persone, di personale olografico, quindi c'è il medico d'emergenza, l'artigliere d'emergenza, il navigatore d'emergenza, quello che il ricevitore di gente d'emergenza, cioè tutto praticamente olografico, ognuno delle quali ha la propria personalità e il proprio accento, quindi c'è quello british che è il dottore, c'è quello sudamericano che è l'artigliere, c'è il navigatore irlandese e via di seguito, tutte cose che ovviamente in Italia si sono perse, però probabilmente ci sarà un vabbè, modo, vabbè, lo spagnolo lo hanno caratterizzato, vabbè, spagnolo un po', perché è spagnolo, parlava spagnolo, quindi era facile, però probabilmente gli altri che ovviamente non possono dargli degli accenti trentini o siciliani. Uè, Simzon, è uguale, infatti è più o meno a quello. Probabilmente lì noteremo la differenza dai vestiti e dal modo in cui parlano, cioè magari quello un po' più raffinato, quello un po' più rozzo, quindi diciamo, le differenze saranno più difficili da vedere. Vediamo, dai, perché secondo me la scuola italiana del doppiaggio ha sempre avuto... Mi è venuto il dubbio, ma sto cazzo di capitano, ma sarà vero a questo punto? Cioè, il dubbio mi viene, perché... No, il capitano sì. Beh, speriamo almeno quello, dai. Però vabbè, ovviamente che succede? Insomma, si creano tutti questi presupposti, adesso finalmente inizia questo viaggio, si trovano subito a scontrarsi contro un vecchio spacchiero romulano Qatar, come si chiamava? Scatarravano come i Klingon durante... Cioè, ci hai fatto caso che la lingua romulana che abbiamo sentito in quell'episodio sembrava stranamente simile al Klingon? Scatarravano? Sì, un pochino sì. Boh, strano, vabbè, comunque... Lì probabilmente è stato qualche errore d'adattamento, non lo so. Fatto sta che comunque si sono trovati con questa nave alle calcagna. Chi gli va a togliere le castagne dal fuoco? Che proprio tette di nove. Con una nave anche essa non registrata. Prima sfonda la nave e poi viene distrutta, quindi, però viene prontamente salvata da Vicar. E finisce la puntata con questo cliffhangers, diciamo, e noi ci così. Siamo posti. Ah, intanto Davide Gatti, che è tornato ad ascoltarci, dice: manca di incontrare due Spock. Ma perché non tre a questo punto? No, perché devi incontrare Spock? Sono morti tutti. Basta, vieni. Quanti Spock devi incontrare? Viaggiano nel tempo, multiverso. No. Ci siamo posti una domanda con Gualdi. Se voi, che ne sapete più di noi di Star Trek, siete in grado di spiegarci questa cosa sfruttando informazioni note nel continuum, ben venga. Se no, evidentemente si sono inventati qualche escamotage di sceneggiatura che poi dovranno rivelarci, perché la nostra domanda è... La mia teoria ce l'ho, l'ho detta prima, ve la dico dopo. Quando, allora, dovete sapere, se lo avete visto, cioè avete fatto caso, che quando Sette arriva teletrasportata sulla nave dove trova Picard, si salutano come due persone che si conoscono, e non Locutus e Sette di Nove, Jean-Luc Picard e Sette. Quindi la domanda è: quando cazzo mai si sono conosciuti questi, se la Voyager era dove era e se a stento, almeno fino all'insurrezione, Jean-Luc Picard ha conosciuto giusto Catherine Janeway? Allora, la versione ufficiale è che ancora non c'è una versione ufficiale, infatti, ma mi pareva, è probabile che, visto che comunque è una nave che torna al quadrante Delta con un Borg a bordo, un po' di clamore l'abbia suscitato, e magari si sono incontrati subito dopo, e magari ci spiegheranno dopo quando e come sì, si sono incontrati. Però quel modo di salutarsi era pieno di sottintesi. Cioè, io dico: no, cazzo, ma se bravo, ma vedi, ma secondo me si sono, la teoria quella reale è che secondo me si sono conosciuti quando, dopo che sono tornati con la Voyager, quando hanno fatto le feste. Quello è per forza, prima hanno fatto può le feste, stato. Quando al Comic Con, ai veri Comic Con, quando andavano a fare le cose, quelli si sono conosciuti. Perché poi ricordiamoci che il nostro Picard, che io fino a qualche mese fa, confesso, avrei giurato potesse essere, diciamo così, gay, invece è un discreto non lo sapevo, è un discreto amatore delle tette. Sì, sì. E quindi anche, posso capire eventuale tette incontro di nove, con tette, sì. No, lui c'ha un amico, il gatto di McCallum, che è gayissimo e con il quale fa le cose più assurde dell'universo. E io per quello ho pensato: beh, magari guarda, Stewart è uno che c'ha come ho detto, c'ha molta più capoccia dei tanti ragazzetti di oggi. Sì, ma quindi... intanto dice Davide: diciamo che nel complesso lo trovo veramente stanco questo Picard, soprattutto irrealmente dismesso, e quelle poche volte che fa l'autoritario non convince. Ma è così anche infatti nel timbro di voce così. Cioè, secondo me tutto questo atteggiamento è stato appositamente, è assolutamente un ex capitano con le palle che si è messo da solo, ma è stato messo un po', si è messo da solo in disparte, e che dopo 20 anni, 14 anni ufficiale, ma dopo anni praticamente si ritrova a cercare di avere l'autorità che non c'ha più. Non c'ha più quella, nessuno sa, la gente manco si ricorda più chi è, un altro po'. Sì, cioè, quindi è anche normale. Lui si ritrova in questo equipaggio, tutti i ragazzetti fondamentalmente, e lui è un vecchiaccio che cerca di portare un po' di ordine, di fare la persona che non è più, perché lui non è più il capitano Picard, cioè non è più la persona che era una volta. Però quando dice attivare, dai, lì, dai. vabbè, un pochetto si tocca. Lì è molto. Però lì è molto questa è anche la storia, quindi anche un po' il recupero dell'autorità perduta, insomma, quindi del vecchio Picard, di ricerca di se stessi. Quindi anche questo è una cosa voluta. Peppe invece ci dice: si sono conosciuti durante l'ammiragliato di Picard e durante la collettività. Sì, durante la collettività ci può stare, ma io ho specificato non a caso che l'incontro e il sottinteso e l'ammiccamento, chiamiamolo così, è stato tra Picard e 7 e non tra Locutus e 7 di 9. E durante l'ammiragliato, sì, stiamo facendo ipotesi, nel senso che non ci stiamo riallacciando a nessun fatto finora visto nella cronologia. Questo sì, evidentemente lo dobbiamo dire, quindi aspettiamoci qualche flashback. Probabilmente ci saranno, sì. Oh, invece dice Davide Gatti, la tizia, la specialista sui sintetici, la dottoressa. La dottoressa Giuliacci, sì, dire. Esatto, ha un cognome praticamente italiano. Sì, beh, tranne che con la J, però. Esatto, però. Dice, comincia a somigliare a Tilly. Sì, è un po' il volto, diciamo, tragicomico, è quello un po' maldestro che serve a creare, è quello che serve a smorzare a fare gli spiegoni più anche che altro, esatto. Perché quando c'è sta qualche cosa, perché una cosa funziona così, lei che deve fare l'ignorante della situazione dice, ah, perché questa cosa funziona così, e parte lo spiegone. E lei gne. È così. E invece, per esempio, giustamente PRG, che avvalora e corrobora la nostra tesi, dice dice, parlando ovviamente sempre di Picard, dice, è una persona delusa dall'istituzione a cui ha giurato fedeltà per quasi tutta la vita. Esatto, e non di meno a tipo 100 anni, quindi anche uno zinzinello anziano, cioè sono tutti Picard. Ah, 92 ce n'è. Quanti? 92 solo? Sì. Beh, no, 92 anni, che comunque vabbè, sta lì un attimo, cioè comunque. Beh, ricordiamoci che lui c'è anche il cuore artificiale, non è che è quello, che, quello pompa una cifra. Comunque poi c'è stato l'altro personaggio, che è Raffi Musiker, che era appunto la sua collaboratrice, ex ufficiale pure lei, che non riusciamo a capire di che nazionalità è. Cioè, Raffi, si chiama Raffi di nome, eh? Credo sia un diminutivo. No, è Raffi. Raffi Musiker si chiama con la K. Vabbè, non riesco a capirlo. Raffi Musiker. Vabbè, forse è tedesca. Probabile, Musiker. Non lo so, sulla biografia del personaggio non si sa niente, quindi possiamo... Era un po' come i personaggi di Discovery, no? Tipo Iriam, che la prima stagione era un alieno, poi un alieno cyborg, poi un alieno robot, poi un robot cyborg alieno multinazionale. Dopodiché, ah no, è un umano cyborg. Cioè, vabbè, perché non lo sapevano neanche loro. Cioè, nella prima stagione di Discovery non sapevano un cazzo, cioè avevano buttato lì dei personaggi senza dargli un background, ed era fantastica sta cosa. Comunque, in ogni caso, sì, c'è Peppe Rizzard. Sì, aspetta, Peppe Rizzard diceva, parlando di Picard 7, dice: se l'è ammiragliata durante l'ammiragliato. Devo spoilerare? Spoilera. Mentre invece su Rafi ci dice: potrebbe essere Raffaella, quindi per esempio cubana o anche portoricana o qualcosa del genere. Però è proprio Raffi, cioè non c'è un... per esempio Cristobal... Vabbè, noi la conosciamo come Raffi, ma potrebbe essere Cristobal, come cacchio si chiama, Robis, la roba, come cacchio... Vabbè, il capitano c'ha nome, cognome e diminutivo. Vabbè, che... Infatti è strano, boh. Vabbè, no, ci spoileri, che cosa ha fatto? Se l'è bombata a 80 anni, dai, cioè, mamma mia. Grande. Scusa, c'ha la pompa infatti, protonica, no. Marcore là pure. Grande, quello, cioè, il sangue lo fa. Bravo. No, sarebbe bellissimo. Vai, io cerco nuovi dati, tu. Vai, io però sono già su Memory Beta, non c'è molto più di quello che ti ho detto su. Per esempio, quando incontra da Borg Picard, lo chiama, quando si riferisce a lui come Locutus. Infatti, quindi. E anche lì, vabbè. Ricordati che i Borg gli davano ai neoassimilati dei nomi per, diciamo, favorire la transizione, ma in realtà, o meglio, solo Locutus, esatto, gli è stato dato un nome perché serviva a favorire il dialogo con con la civiltà di appartenenza. Che il dialogo era, se eri assimilati, era resistenza inutile, cioè basta, questo era il dialogo che poi serviva. Locutus, come gli è venuto proprio poteva essere Saverio? No, Locutus, perché? Non lo so. Loco perché è matto, tu as, matto per noi. Cioè, ma Locutus sembra quasi un latinismo. Ma che non si sa. Cioè, magari c'ha qualche senso latino, che cazzo ne so. Che ci dice Rizza? Io sono curioso, perché devi spoilerare. Perché non ci spoilerà? Dice: Oh, Stuart c'ha la moglie fregna e Picard fa il frocio? Ma in realtà Picard, voglio dire, nelle sue occasioni un po' armollica l'ha pure fatto, sempre limitatamente. Era un po' imbazzonato, però lui era sempre stato assolutamente tutto casa e astronave, quindi... Anzi, solo astronave. Solo astronave. Ci abitava, per cui... Ah, cioè, povero Patrick. Oh, no, ci dice Peppe, latino, locutus, colui che parla? Beh, può essere. Perché da locuzio locure la locura. Sì, comunque sì, può darsi, eh. Ci avrebbe senso anche. Dizione, guardando. È il participio perfetto di loquor. Che significa? Participio perfetto di loquor. Parlare, sì, parlante, quindi potrebbe essere colui che ha parlato, cioè colui che parla. Visto il latinismo, non l'avevo. Bravo, non l'avevo buttato a caso. Bravo, bravo. Oddio, Lobster dice locutus no ken. Ecco, questo è un po' meno bravo. Poi con te parliamo in privato, Lobby. Tu ancora ci devi spiegare la questione della maschera di Bertinotti, eh? Vabbè, e niente, potremmo passare anche i prossimi 3 secondi a fare congetture, ma io direi che, insomma, come dire. Ah, dovremmo vedere il sondaggio com'è andato. Il sondaggio com'è andato? Allora, guardate, vi mettiamo un piccolo, come dire, una piccola pausa musicale dell'ultimo momento, perché mentre noi controlliamo il sondaggione, voi vi rifocillate insieme a noi e poi ve lo comunichiamo in diretta. Amici di Runtime, nella canzone che stavate ascoltando era contenuta la verità. Correvano i mitici anni 80 quando Rick Astley aveva predetto l'epidemia, esatto, di virus corona, che si chiama Never Gonna Give You Up. Abbreviato in Nego Giap. Chiap. Nego Giap. Nego Chiap, ok. No. Quindi per comodità verrà chiamato Nego Chiap. il Nego Giap è appunto, infatti, il nuovo virus ha vinto a mani basse in maniera del tutto democratica, ha vinto questo sondaggio, perché qui in questo sondaggio vigeva la libertà totale ed assoluta di fare come cazzo ci come pare. Cazzo ci pare a casa nostra, aiutateci a casa nostra. A proposito di aiutarci a casa nostra, ci sono delle campagne patreoniche. Ragazzi, se per caso ci voleste mai dare una mano, noi vi ricordiamo un po' che non lo facciamo. Una mano, che ci facciamo con una mano? Noi ci servono i soldi. Cioè, esatto. Infatti, perché se volete che questo programma vada avanti con soli prodotti italiani, occorre budget. Esatto, siamo costretti a prendere dei rumeni che vengono qui. Cioè già poverini, insomma, potevano farsi i cazzi loro a casa. Cioè, esatto, che stanno tanto meglio. No, invece meglio. Devo venire qui a fare la trasmissione a posto nostro perché sottopagati. Patata. Esatto. Cioè, poveretti, dai. Pertanto, ricordatevi la nostra campagna Patreon, con cui potete donare 1 euro, 2 euro, 5 euro al mese, quello che volete. Oppure, se prova non vi va, perché Patreon è un po', come direbbe Pizzi, com'è Patreon? Barocco, è barocco. Barocco, è barocco. E preferite una donazione, una tantum, visto che manca poco a Natale. Runtime Radio è il nostro profilo su PayPal. Fateci PayPal. PayPal. Fateci una donazioncina, 1 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro, 100 euro. No, 2 euro, no, sono tutte tasse. Almeno 2-3 euro, dai. Esatto, così che possiate garantire la sopravvivenza dell'italianità, di merda come esatto, dell'italianità dei nostri programmi. Solo saremo costretti a utilizzare, diciamo, personale straniero. Quindi lasciamoli stare, poverini. Ci hanno sta sfortuna che vengono qui. Dai. Abbiamo pochi secondi per augurare la buonanotte e ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato questa sera. Rizzard, Lobster, Davide Gatti, anche se ci ascoltava un po' sì, un po' no. E, zio Mischi, che ci recupererà sicuramente in difterite. Leo Vargion, che ci è tornato a trovare dopo un po' di tempo. Pier G, il nostro Stefano, che ci ha salutato all'inizio puntata e poi ovviamente ci ascolterà in difterite come sua abitudine. E poi, come al solito, quell'enorme pletora di pavidi che non si palesano. Marco, anche oggi ce la siamo portata a casa. Esatto. Io ti saluto e non vedo l'ora di andarmene, perché allora questo vai, posto vai. È pieno di cose non italiane.